Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Se parliamo di calcio nostrano, il grande dibattito odierno è legato al tariffario del giudice sportivo sul conto di Ibrahimovic, di Radu e di Galloppa e sul mancato utilizzo, aggiungerei io, della prova TV invece a carico di Matusalem, che ha lasciato impunito il fallo di gran lunga peggiore di una domenica di ordinaria, anzi straordinaria scorrettezza, con il primato stagionale tra l'altro di espulsi 8. Se parliamo invece di calcio internazionale, stasera all'Allianz Arena c'è il rien ne va plus del calcio italiano di club, perché se esce l'Inter esce quel poco che resta della nostra nutrita rappresentanza iniziale. Bentornato dunque al Ministro degli Esteri. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Sì, quel poco, ma va anche detto che quel poco è rappresentato dai campioni in carica. Quel quindi poco diciamo che è una fish, diciamo che stessimo ai Giochi Senza Frontiere giocheremo il jolly. È la fish principale, è il jolly per l'appunto, è la squadra che detiene la Coppa dei Campioni, che stasera parte da questo 0-1 casalingo, da rimontare quindi ad ogni costo, sul campo del Bayern. Innanzitutto, come sta il Bayern? Il Bayern ha visto contro l'Amburgo all'Allianz sta molto bene anche perché è riuscito a giocare una partita quasi esclusivamente nella metà campo degli altri e quindi quando il Bayern riesce a impostare queste partite diventa un cliente complicatissimo, un po' meno quando invece il Bayern viene attaccato. Per quanto riguarda le condizioni generali di Robben e Ribéry mi sembrano buone, purtroppo buone per l'Inter, perché sono due giocatori, soprattutto Robben, che ho visto di nuovo in temperatura. Non è un caso che Robben a questo punto della stagione cominci sempre a carburare parecchio. Evidentemente, al di là poi della gestione degli infortuni, c'è una stagionalità anche per lui che lo porta a diventare a volte irresistibile proprio in questi frangenti, diciamo da febbraio in poi. Per quanto riguarda il resto, è un Bayern di Monaco che cambia qualcosa rispetto all'andata, aveva una coppia centrale un po' raffazzonata, questa sera comunque avrà una coppia centrale molto debole perché gioca Van Buyten dal primo minuto, insomma Van Buyten lo ricordiamo sì. Veramente bene, una statua di sale sul secondo gol di Milito a Madrid, generalmente un giocatore molto molto lento, bravo nei colpi di testa naturalmente, una presenza fisica importante, imponente, però un giocatore molto battibile, decisamente battibile. Da quello che mi dicono gli inviati nostri all'Allianz Arena non è nemmeno certo che Milito possa andare in panchina. C'è ancora qualche dubbio sul fatto di vederlo o meno in panchina, quindi c'è la certezza di non vederlo in campo. E per quanto riguarda la coppia centrale, giocherà Luis Gustavo accanto a Van Buyten con Pranić e Lam sulle corsie e Kraft in porta. Gioca Kroos dal primo minuto, dovrebbe giocare Kroos dal primo minuto, per il resto diciamo così l'arsenale importante di Van Gaal è quello solito, quindi Schweinsteiger a centrocampo con Robben, Ribéry, Gomez e Thomas Müller con il compito di offendere. Sì, quindi molto, molto più preoccupante dalla cintola in su per l'Inter. Beh, decisamente. Però sai, io credo onestamente che se l'Inter riuscisse in una controimpresa di non fare nemmeno un gol in 180 minuti, ecco, io trovo che anche la giustificazione mancato solo il gol diventerebbe ridicola, perché sì. Siccome l'abbiamo già sentita questa cosa, no? Sì. Che è mancato solo il gol, io veramente non trovo pensabile che l'Inter in 180 minuti non riesca a fare un gol a una squadra come il Bayern di Monaco. Poi per carità, se ne possono prendere tanti, intendiamoci, il Bayern di Monaco può fare 3-4 gol a tutti, però non segnare manco un gol secondo me davvero andrebbe rubricato come una controimpresa clamorosa, e io non credo sinceramente, soprattutto con un Samuel Eto'o in discreta forma, che questa cosa possa accadere. No, non penso neanche io, perlomeno alla vigilia non è questa la sensazione, non credo ci sia questo grande rischio di supplementari, perlomeno sulla carta, perché l'1-0 per l'Inter al 90esimo non è un risultato probabilissimo, visto che la difesa per l'appunto del Bayern non è il suo forte, e semmai il suo forte è l'attacco. Si diceva una settimana fa che la riduzione, l'accorciamento, non so come dire, il contratto di Van Gaal, e quindi il fatto che sia ormai un allenatore col bollino di scadenza a fine stagione sulla panchina avrebbe potuto nuocere alla squadra. Ora, nel primo turno di campionato utile col 6-0 all'Amburgo non è stato così. Che cosa, conoscendo e sentendo appunto un po' che cosa accade in Germania, perché noi di una situazione del genere faremmo un caso, no, chiamando in causa non so chi, temo anche gli ospiti abituali di Porta a Porta, insomma, quando, no, psicologi, psichiatri, eccetera, eccetera. E E invece in Germania sembra che l'abbiano presa con la massima naturalezza, e cioè questo finisce il suo contratto a fine anno e poi se ne va, e nel frattempo cercherà di fare il meglio possibile. Quindi insomma, a occhio destabilizzazione non sembra che ci sia. Guarda, due cose, Gigi. Secondo me la prima è che questa notizia che in Italia avrebbe destabilizzato lì ha paradossalmente stabilizzato. Cioè la notizia era doppia, non era soltanto Van Gaal starà qui un anno in meno, ma soprattutto Van Gaal starà qui ancora qualche mese. Cioè il messaggio dato forte e chiaro alla squadra è ragazzi, guardate che questo signore starà in panchina fino a fine maggio con noi, quindi fate i bravi, perché comunque non ve lo levate dai piedi se avete per caso intenzione di fare qualche scherzetto. Vero. E credo che insomma, quando una società come il Bayern di Monaco fa un ragionamento così, vista anche la caratura dei dirigenti e soprattutto anche il passato di qualcuno, io penso che poi i giocatori possano recepire. E la seconda è che, ma questo è un paradosso, ma fino a un certo punto, la partita con l'Amburgo avesse grosso modo il peso che ha quella con l'Inter, perché l'anno prossimo la finale della Champions League si disputerà a Monaco di Baviera, e quindi credo che sarebbe proprio un disastro se il Bayern di Monaco non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League, ma un disastro pesante. E quindi penso anche che la dirigenza del Bayern di Monaco abbia chiesto, non dovrebbe esserci bisogno di chiedere, ma sicuramente l'hanno fatto, ai giocatori di tornare a mettere completamente la testa nel campionato, perché arrivare terzi o quarti o quinti non è la stessa cosa, soprattutto in questa stagione. La Bundesliga comunque promuove ancora 3 squadre e non 4 come dal prossimo campionato, e quindi il Bayern di Monaco, che è uscito dalla Coppa di Germania in casa contro lo Schalke, che in campionato è lontanissimo dalla vetta, insomma l'obiettivo minimo è sì certo andare avanti il più possibile in Champions, però la Champions siamo molto lontani, siamo ancora agli ottavi. Campionato invece, intanto che è un territorio di caccia più consueto del Bayern, è importantissimo che il Bayern si qualifichi per la prossima Champions per provare a sognare di vincerla in casa, e questo credo che i giocatori l'abbiano immediatamente recepito. Poi ci sono le notizie, no, ce ne sono tante altre, subito dopo l'intervallo. In breve volevo dire che annunciare che il campionato di calcio giapponese è stato sospeso a tempo indeterminato, si pensa, era stato in un primo tempo sospeso fino a fine mese, ma stamane la sede della Lega a Tokyo hanno deciso di cancellare anche le partite in programma il 2 e 3 aprile come minimo, perché la situazione, ha detto il presidente del club giapponese Kashima Antlers, cioè del principale club, la situazione sta purtroppo peggiorando di giorno in giorno, e quindi per almeno un mese non se ne può neanche parlare. Rinviato anche il Gran Premio motociclistico del Giappone, previsto per il 24 aprile, è spostato al 2 ottobre. Purtroppo anche lo sport, e forse solo lo sport, deve fare il conto con questo dramma planetario. Intervallo per le strade. Si accorcia il contratto di Van Gaal, si allunga quello di Löw, il CT della nazionale, cui è stato prolungato l'accordo fino al 2014, cioè fino a dopo la Coppa del Mondo brasiliana, per l'appunto del 2014. Vabbè, poi ci sarebbe il Borussia, Fabio, che ha perso dopo tempo immemorabile, ma mi pare che il vantaggio che conserva sul Leverkusen sia più che rassicurante. E c'è invece questo addio dell'Arsenal, praticamente è ancora in lizza per la Premier, però ha passato 2 settimane veramente disastrose. Sì, davvero disastrose, perché prima c'è stata l'eliminazione, cioè la sconfitta davvero clamorosa, dovuta ancora una volta a un errore difensivo, e qui siamo al paradosso o anche allo psicodramma, nel senso che poi l'Arsenal non vince da qualche anno, ma il comune denominatore dell'Arsenal sono o le papere dei portieri o le follie di alcuni difensori. Credo che qui c'è stata la sconfitta nella finale di Carling Cup contro il Birmingham City, finale nella quale l'Arsenal era largamente favorito. Poi è chiaro, l'eliminazione dalla Champions dal Barcellona ci sta, e come, sia per quello che abbiamo visto all'andata, ma soprattutto quello che abbiamo visto al ritorno, anche se poi di fatto è stata un'eliminazione che poteva essere ribaltata se Mascherano non avesse fatto una cosa fantastica in chiusura nel finale. E, per quanto riguarda poi l'FA Cup, c'è stata la sconfitta contro il Manchester United, però insomma, diciamo che queste due ci potevano stare, anche perché quella col Manchester è avvenuta in una gara unica sul terreno di Old Trafford. Quello che secondo me comincia a preoccupare, anche se l'Arsenal è ancora in corsa nella Premier League, ha 3 punti di ritardo dallo United e una partita da recuperare, è il fatto che insomma questo Arsenal promette, ma poi alla fine non vince mai. Il sospetto che ho io è che giocatori importanti come Fabregas siano diventati adulti e siano diventati grandi, avendo la possibilità di avere in campo giocatori, non dico a fine carriera, ma a fine di un grande ciclo. Cioè, quando arrivò Fabregas c'erano ancora Henry, c'era Pires, c'era Ljungberg, c'era ancora Vieira, cioè erano giocatori ancora nel, diciamo così, nella parte finale della loro carriera, ma erano ancora dei giocatori importanti. Quello che invece è capitato ad altri giocatori che sono arrivati all'Arsenal è stato il fatto di avere sì la grande chance di giocare subito, ma non sempre accanto a grandi giocatori, diciamo da 30 anni in su, o intorno alla trentina, ma di giocatori molto molto giovani. E quindi quando la squadra è formata quasi soltanto da giovani prospetti, è difficile che tutti riescano ad avere l'esempio anche solo nell'allenamento o nella gestione della settimana per arrivare pronti alla partita. E quindi ho il timore che l'Arsenal abbia rinnovato un po' troppo e quindi non sia riuscito a mixare i giovani con i vecchi, e a questo punto, avendo tutti i giovani stanno piano piano diventando un po' più adulti, ma senza quel traino che avevano, che ha avuto ad esempio Fabregas. Sospetto più che fondato, mi pare proprio. Fabio, chiuderei con questa notizia curiosa Che mi hai segnalato nei preaccordi di puntata di questo centrocampista islandese del Reading, perché è una notizia minima, ma è molto significativa e trovo che dovrebbe fare nel suo piccolo scuola. Il problema diventerà se farà giurisprudenza e soprattutto se potrà essere allargata ad altre categorie. Ci sta addirittura la class action, se vogliamo, cioè quando un giocatore firma un contratto, poi è chiaro che la società investe anche dal punto di vista del merchandising e conta di vendere magliette. Voi pensate a quanti soldi il Real Madrid ha speso, ma poi ha rincassato con tutte le magliette dei vari Beckham e tutto il resto. Anche quando i giocatori sembravano davvero acquistati solo per quello. Certo. Allora, il tifoso che acquista la maglietta di un giocatore e acquista la maglietta di una squadra con il nome del giocatore, quando poi il giocatore viene venduto ha due chance: o bruciarla come ha fatto qualcuno, e ovviamente noi condanniamo queste cose, ma qui basta, cioè non occorre andare molto indietro, no? Basta vedere quello che è successo con casi anche abbastanza recenti. Certo. Oppure può semplicemente metterla nell'armadio e non tirarla più fuori, oppure fare come ha fatto questo tifoso, cioè di far causa alla società, di dire: ma come, io mi sono abbonato, so che qualcuno lo sta pensando anche alla Sampdoria, per dire: io mi sono abbonato a luglio o ad agosto, quando c'erano Pazzini e Cassano, poi certo, tu mi hai venduto Pazzini e Cassano, allora il mio abbonamento vale molto meno. Diciamo che c'è possibilità di dibattere su questa cosa. Io lo ammetto, lo dico subito, sono contrario. Però questo tifoso ha ottenuto il risarcimento. Il giocatore come si chiamava? Era? Prego? Il giocatore. Guarda, adesso lo vado a cercare, no, mi prendi all'improvviso. Potrebbe essere Sigurdsson. No, vado a cercarlo. E, per cui la possibilità di andare per vie legali e per farsi rimborsare questa cosa è a questo punto diventa realtà. Quindi io non credo che poi le campagne acquisti o le campagne vendite verranno fatte in base al timore o al rischio che qualcuno possa avere di ricevere un invito a comparire da parte di un avvocato piuttosto che di un pubblico ministero. Però insomma, tengano conto le società che da adesso c'è anche questa strada, e siccome le sentenze poi comunque fanno giurisprudenza, la giurisprudenza potrebbe anche invogliare qualcuno a tentare qualche causa che non sarebbe temeraria, ma sarebbe a questo punto magnifica, guarda, legittima. Allora, Sigurdsson, centrocampista islandese, no, giocava nel Reading. Invece il tifoso, no, il tifoso, il milite ignoto, 42 anni, che si chiama McGee, che ha deciso di fare questa causa perché era il suo idolo, eccetera, ha comprato questa casacca e ha vinto la causa e ha preso 72 sterline di risarcimento, che sono diventate 84 per compensare anche le spese legali. Certo, gli hanno rimborsato la maglietta, quindi, cioè, non è stata una vittoria di quelle economicamente eclatanti, però è stata una vittoria che secondo me, se un avvocato se la può giocare, non so quanta gente vorrà avventurarsi in una causa del genere, però so anche che c'è chi lo fa per puntiglio, e quindi famosa, i dirigenti stiano attenti e i giocatori pure. La famosa questione di principio. Bravissimo, è la questione di principio. Certo. L'importante è vincere, non importa quanto, ma certo, l'importante è vedere riconosciuto un proprio diritto. Molto bene. Fabio, noi ci sentiamo domani per il dopo Bayern-Inter, per il dopo Manchester-Marsiglia, direi, e per la vigilia del Real e del resto di domani sera. Grande piacere, a domani. Grazie. Dunque, dove passiamo adesso? Beh, a tanti messaggi, a molti ascoltatori già prenotati, principalmente mi pare di capire proprio per questa distribuzione di tariffario da parte del giudice sportivo, ma anche ad una notizia particolarmente inquietante di stamane. Dunque, è una notizia che a Sanremo era da tempo nell'aria e che si è concretizzata stamane di buon'ora. Il presidente della Sanremese, che si chiama Marco Del Gratta, è stato arrestato dai carabinieri alla sua villetta, eccetera, e finito in manette per presunte minacce ai giocatori della Sanremese per costringerli a lasciare il club prima della scadenza naturale del contratto. All'inizio del mese il presidente aveva annunciato che per motivi familiari e personali metteva in vendita il club. Le minacce servivano, secondo la ricostruzione che è stata fatta, per ottenere la rescissione dei contratti senza dover pagare cospicue penali. Oltre al Gratta è stato arrestato anche il padre, Riccardo, e altre persone legate alla vicenda. Tutto è partito dalle indagini su un omicidio di un giovane sanremese freddato con un colpo di pistola nel suo negozio di ortofrutta nel quartiere di San Martino. In carcere si trova Nicola Trazza, che avrebbe confessato di aver sparato per errore all'amico mentre litigavano su chi dovesse tenere la pistola utilizzata proprio per minacciare i giocatori della Sanremese. Insomma, una storia allucinante. Poi ovviamente quando si parla di infiltrazione di 'Ndrangheta o di camorra o di mafia al di sopra della cintola, no? Al di sopra del Rubicone, comunque al nord, naturalmente si levano voci indignate, voci stupefatte prima e sacrosantamente indignate poi. Torniamo a questa vigilia di serata decisiva, di dentro fuori di Coppa Campioni per l'Inter, con un possibile protagonista, almeno così l'Inter si augura, che è Sneijder. Abbiamo giocato molto bene in casa, abbiamo perso, ma con tante occasioni, se facciamo 3-4 gol lì in casa, non abbiamo fatto. E c'è un altro 90 minuti qua, e è difficile, ma ci pensiamo, c'è fiducia. Dobbiamo fare gol, basta, perché stiamo perdendo adesso. 1-0 per loro e dobbiamo fare gol. Non lo so se è 70-30, ma loro sono in avvantaggio, quindi 1-0 per loro. Se io dico adesso che è 60-40, per me non vale così, perché possiamo vincere qua, ci crediamo. Hanno giocatori con tante qualità, soprattutto Ribéry e Robben che giocano molto bene, sono importanti per loro, ma noi ci pensiamo solo in noi. La class action del tifoso deluso per la cessione dei gioielli della squadra credo sia una completa assoluta follia, un punto di non ritorno, scrive Giacomo in un messaggio. Vabbè, è un'opinione e non è detto che non sia fondata. È anche vero però che insomma, il merchandising ha certe regole a sua volta, e lì ha puntato questo giudice britannico. Dunque, sempre vigilia di Bayern-Inter, e poi cambiamo, ripeto, argomento nella seconda parte del programma, ormai tra poco, dopo i mercati, sentiamo come Leonardo conta di impostare la partita sulla base delle caratteristiche ripassate all'andata del Bayern. Io credo che stiamo parlando di Bayern Monaco e di Inter. Credo che abbiamo giocato a San Siro, il Bayern Monaco ha vinto 1-0, una partita giocata alla pari dove ci potevano essere tanti altri risultati rispetto a quello che è stato. Giochiamo alla casa del Bayern, ma tutto ci sta. Non credo che una vittoria dell'Inter sia niente di strano. Credo che sia una cosa normale, due squadre che hanno, diciamo, le stesse ambizioni, tradizioni simili e importanza simili, e quindi ce la giochiamo come crediamo proprio di passare, con l'ottimismo di sempre, con la voglia di sempre. Quello che mi fa forte, ripeto sempre, forse mi ripeto, ma è la forza che questa squadra ha di superare qualsiasi cosa. Torniamo subito dopo l'aggiornamento dei mercati e cominceremo con il primo ascoltatore già prenotato di oggi, che Alessandro ha chiamato da Padova. Scrive Davide da Torino: Gigi, inviti i suoi ascoltatori a esporre la bandiera tricolore per giovedì 17. Torino è già piena, Milano nulla, ma la usiamo solo per la nazionale. No, cerchiamo di usarla per questo 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, che tra l'altro noi celebreremo come, beh, come Radio 24 per tutti questi giorni, come rubrica sportiva nostra, in particolare giovedì 17, celebrando alcuni tra i più grandi protagonisti della storia dello sport italiano che voi stessi ci avete segnalato. Sono arrivate, da quando vi ho sollecitato lo scorso giovedì, sono arrivate veramente tante segnalazioni, alcune prevedibili, perché il soggetto era, o i soggetti possibili erano, cioè, i grandi o le grandi squadre o i grandi atleti o le grandi squadre che hanno, come dire, più rappresentato momenti di unità, no? In questi, in tutto questo tempo, e quindi molti hanno segnalato il grande Torino, molti si sono ricordati di Bartal in particolare per quel famoso luglio del 48 che coincise, in cui una sua grande vittoria al Tour coincise con l'attentato a Togliatti, e tanti altri sono arrivati invece di più originali, non so, la vittoria di originali, no, testimonianze di memoria più sopraffina, per cui la vittoria del 1005 alle Olimpiadi di Los Angeles del 32 da parte di Beccali, e tanti tanti altri ancora. Beh, insomma, stiamo assemblando un po' tutte questi tanti di queste vostre opinioni, ma soprattutto Franco Piatanida ha frugato in archivio, ha trovato dei tesori di vecchie voci, di grandi personaggi dello sport italiano da riascoltare insieme giovedì. E in più ci sarà un uomo simbolo del calcio italiano che ci conciderà invece un'intervista esclusiva, direbbe qualcuno, ma insomma un'intervista di grande spessore, dato anche lo straordinario spessore del personaggio. Diciamo che se qualcuno di voi vuole ancora segnalarci la sua scelta particolare, beh, lo faccia in tempo reale, insomma, lo faccia alla mail di Radio 24, diciamo nella prossima ora, oppure taccia, no? E poi aspettiamo i 200 anni, tanto saremo poi qua regolarmente tutti a festeggiare anche quell'anniversario. Dicevo che c'era un ascoltatore, sì, che sta aspettando. La mail è ovviamente a tempo di sport @radio24.it. È in attesa da tempo Alessandro da Padova, mi scuso con lei, dica. Buongiorno dottore. Dunque, buongiorno. L'altra sera io ero a cena con un arbitro professionistica, che fa l'arbitro a livello professionistico, diciamo fra A, B, C o semipro. Dunque, lui ha evidenziato questo problema. So che lei è piuttosto conservatore su questa cosa, perché ascoltandola spesso, so su questo argomento lei non è molto d'accordo con noi, però lo sfogo viene da un arbitro. E abbiamo parlato fra l'altro che l'International Board ancora una volta ha negato il supporto tecnologico per il sistema arbitrale. Volevamo solo dirle appunto che parlando con loro il calcio è diventato 5 volte più veloce che dagli anni 70, nonostante la preparazione, che è molto cambiata, gli arbitri siano molto migliorati. Perché se lei non prendeva un esempio, per esempio, faccio un esempio. Sì, Alessandro, lei ha già imboccato due tangenziali, mi scusi. Cerchiamo di restare sulla retta via e soprattutto vediamo di non dare informazioni di attendibilità relativa. Il calcio di oggi è più veloce 5 volte rispetto agli anni 70. Un giornato le faccio vedere come correva Viervo o qualcuno di allora e poi ne riparliamo. Stringiamo, se lei vede prendo un filmato di una partita per esempio Italia-Germania, Domendini prima che venisse raddoppiato passano 8 secondi, sì. Adesso ne passa 1 secondo e 60. Queste sono cose tecniche, io sono allenatore di calcio, sì. Le dico, sì. E queste cose le studio, fra l'altro io sono in contatto con allenatori olandesi, vado spesso in 80 e sono molto amico con l'allenatore dell'Ado Den Haag in Serie B. Se lei va a vedere la B olandese, che è tutto un pre, tutto un corpo, che giocano in 60, se viene un gol dopo ne vengono 12 perché si aprono come gol. È tutto cambiato, dottore. Sì, non sì, sì, può... no, ma che sia cambiato non c'è nessun dubbio. Che oggi il calcio sia più veloce rispetto allora, basta avere gli occhi per vederlo. Che il rapporto sia di 1 a 5 e che oggi ti raddoppino dopo un secondo, in certi casi anche meno, ma che ci mettessero 8 secondi ad andare a stringere su Dovenghini, ma sa quanti sono 8 secondi. Grazie per il suo contributo. Oh, scrive Guido da Brescia. Contrariamente a quanto lei ha affermato in apertura, leggo che il giudice sportivo Tosella ha scagionato Matusalem, perché dalle immagini non si può accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, un giudizio circa l'intenzionalità lesiva. Mi chiedo, ma com'è possibile che un professionista che si occupa settimanalmente di questioni simili non veda ciò che è più è parso chiarissimo? No, io allora per l'ennesima volta bisogna scagionare Tosel, che non ne può assolutamente nulla, nel senso che il giudice sportivo interviene con la prova televisiva soltanto su fatti sfuggiti all'arbitro. Ora, cosa è successo? È successo che nel rapporto arbitrale di tagliamento c'è scritto quanto segue: non avendo visto e rilevato nulla, chiedevo via auricolare, è tagliamento che parla, è nel suo rapporto, che scrive nel rapporto dopo la partita, non avendo visto e rilevato nulla, chiedevo via auricolare al mio quarto ufficiale di gara, signor Antonio D'Amato, che cosa fosse successo, e lui mi riferiva che Matusalem involontariamente prendeva sul viso Totti con un piede. Per queste motivazioni non sono stati presi provvedimenti disciplinari. Allora, io sostengo che se D'Amato, che era circa 3-5 metri dall'accaduto circa, ha ritenuto involontario un pestone palesemente intenzionale, perché Matusalem allunga la gamba e la calcagnata la appoggia, no, in maniera plateale, ma questo si vede a velocità normale, sia ben chiaro, senza alcun uso di moviola. Se D'Amato, quarto uomo, ha detto questo a tagliamento, e c'è scritto in un rapporto ufficiale, quindi non c'è motivo di tubina di dubitarne, io sarei per l'abolizione definitiva del quarto uomo, così togliamo questo vigile urbano a metà campo e troviamo un inserviente qualunque che alzi i cartelli per i numeri, per segnare i numeri di chi entra e di chi esce. Vincenzo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno, mi permette una battuta in questi giorni drammatici sul fatto del tifoso che ha fatto causa alla società che ha vinto. Fosse successo a noi in Italia, probabilmente quel tifoso, con la mancanza di bandiere ormai che son perse nelle varie squadre, forse sarebbe arricchito ancora di più, però avrebbe visto, forse i soldi avrebbe visto con la pensione. Sì. Quindi, questa è la notizia che mi ha colpito. E poi le spese legali, che mi sembra che siano state di 8 sterline, da noi sarebbero state sì, difatti 12, credo, se questa notizia all'agenzia poi esatto, anzi no, forse 30, perché c'era il cambio sull'euro. Il tifoso riceverà le 42 sterline spese per acquistare la casacca, più 30 sterline per coprire le spese legali. Sì, comunque rispetto a noi se la cavano benino. La saluto. Grazie a lei Vincenzo. Dunque, allora cominciamo con le squalifiche. Ghirardi, presidente del Parma, è allibito per la squalifica di Galloppa. Dopo il danno anche la beffa, ha commentato: non riesco a capacitarmi come un fallo di gioco possa essere giudicato grave quanto un pugno o una testata, o addirittura più grave delle offese all'arbitro. Sono incredulo, allibito, davvero non ho più parole. È il solito vizio a parer mio, comunque la solita voglia di fare ad ogni costo paragoni o paralleli con altre situazioni. Galloppa ha un piede altissimo nei confronti di un avversario, Hamsik rischia la laparotomia a occhio e croce, no? E credo che l'espulsione fosse sacrosanta e che 3 giornate possa essere una tariffa ammissibile. Bravo Morganti che ha colto questa cosa, pessimo Webb, che pure è reputato il miglior arbitro del mondo, quando per un fallo analogo ancora più cattivo nella finale mondiale risparmiò un olandese che era entrato in quella maniera a centrocampo, direi su Xabi Alonso. Stefano ha chiamato da Perugia, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno e grazie per avermi permesso di telefonare. Volevo il suo parere su un pensiero che mi è venuto ultimamente, che è esattamente questo. Io mi sono appassionato al calcio negli anni Ottanta e mi ricordo che a quel tempo importavamo allenatori come Boskov, Eriksson e Lucescu. E oggi noto che il calcio internazionale mi sembra che sia cresciuto rispetto ad allora, ma non importiamo nessun allenatore che possa anche avere un'ampiezza che ci consenta di crescere, visto che si parla del calcio italiano che in questo momento è un po' in difficoltà. Per esempio penso a un Arsène Wenger, penso che ci potrebbe dare qualcosa, no? Di importante. Quindi volevo il suo pensiero circa questo, e la ringrazio e l'ascolto per radio. Ma il mio pensiero è che stia un po' accadendo il contrario, siano invece gli allenatori italiani che vanno a fare grande il calcio straniero. Ora non so, quest'anno Ancelotti per esempio sta passando le sue pene al Chelsea, ma lo scorso anno al primo tentativo ha centrato campionato e coppa d'Inghilterra, che insomma qualcosina da quelle parti vale certamente più che da noi. Spalletti anche lui ha centrato il campionato a primo tentativo con lo Zenit, insomma i successi in passato di Capello, di Trapattoni e di quanti altri non si contano. Nei giorni scorsi parlavamo con Nevio Scala e ricordavamo le sue prodezze e i suoi trionfi, per esempio alla guida del Borussia Dortmund, ma anche dello Shakhtar Donetsk che lui stesso fondò a questo livello, no? A questo livello di risultati qualche anno fa. Quindi il problema secondo me non è tanto degli stranieri che non arrivano ad allenare in Italia e qualcuno di cui che è arrivato insomma, si poteva magari anche risparmiare. Il problema sono i nostri che invece vanno ad allenare altrove e sguarniscono le linee da noi, perché indubbiamente adesso qualche, non dico direttamente allo sbaraglio, ma insomma qualche soluzione un po' raffazzonatella anche in squadre di livello primario, secondo me ci potrebbe essere. L'ultimo intervallo di oggi, strade. 15 marzo, le Idi di marzo, vediamo cosa ha scoato, data di enormi suggestioni, nei millenni addirittura, non soltanto nei secoli. Sentiamo che cosa ha scovato Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 marzo 1973. Il presidente della Federcalcio Artemio Franchi viene eletto all'unanimità numero uno della UEFA. È il premio per un dirigente capace di guidare il rinnovamento del calcio italiano dopo il flop dei mondiali del 66. Franchi saprà farsi valere anche in Europa, dirigendo la UEFA con autorevolezza e nel governo del calcio mondiale, in qualità di vicepresidente della FIFA. Morirà a soli 61 anni, in un incidente d'auto, nell'agosto del 1983. Di lui scrisse sulla Gazzetta il direttore Cannavò: è stato il nostro dirigente più duraturo, più rassicurante, più esperto. La sua tolleranza, il suo senso di equilibrio, la sua capacità di mediazione, l'arte sopraffina di una diplomazia naturale ne hanno fatto un punto di riferimento prezioso e sempre disponibile. Eh sì, non c'è nessuna discussione. L'unico fuoriclasse, l'unico dirigente fuoriclasse che abbia avuto la storia del calcio italiano. Curiosa questa storia di Marco Rossi, il giocatore del Bari è travolto, lo dice lui, simpatico: mi sento travolto da un insolito destino. Perché prima si è beccato un cazzotto da Chivu in Inter Bari, un cazzotto che è costato a Chivu 4 giornate, e domenica si è preso il cazzotto, manata o quello che è, da Ibrahimovic su un fianco per un totale di giornate 3, sempre all'avversario 4-3-7, però le due botte le ha prese lui. E dato che nel caso di Chivu sì, perlomeno giocava da quella parte, ma nel caso di Ibra domenica invece era probabilmente il primo incrocio che c'era tra questi due giocatori, non si può certamente dire che Rossi sia un provocatore. Di sicuro ha detto: almeno Chivu mi ha chiesto scusa, cosa che invece con Ibrahimovic al momento non è accaduto. E questo mi fa venir voglia di leggere quello che il super tifoso rossonero Vittorio Zuccone ha scritto oggi su Repubblica a proposito di Ibra. Dice: ma lei, come gli interisti avevano capito quando cominciarono a fischiarla, è tollerabile soltanto quando vince da solo le partite e fa cose stupende. Quando diventa una diva sfiatata e presuntuosa come è adesso, che non azzecca più una nota, ma pretende di essere trattata e servita come fosse la Callas, poi scalcia pure e molla pugnetti come un bullo da elementari, ed è meglio per tutti se si fa buttare fuori. Riccardo ha chiamato da Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamavo in merito alla telefonata dell'arbitro. No, ma non era un arbitro, si è scoperto dopo che era un allenatore, e un allenatore che un grande allenatore che è un grande amico di un arbitro, ci siamo capiti, no? Che è un grande amico di un grande arbitro. Ecco, io volevo solo far presente che io seguo relativamente il calcio, seguo un po' di più il rugby. Sì. Nel rugby esiste la moviola in campo solo per le mete, certo, che l'arbitro non riesce ad attribuire immediatamente. Sabato c'è stata Irlanda-Galles, alla Galles è stata data una meta dall'arbitro dopo aver visto il televisore, sì, e tutto quanto, Si scopre che la meta non era assolutamente valida, non è successo, in Irlanda non è successo praticamente niente. È importante sapere che l'Irlanda, se avesse vinto la partita col Galles, andava a giocare poi domenica prossima contro l'Inghilterra, certo, per vincere le Sei Nazioni. Adesso non lo può più vincere, ma non è che la federazione irlandese del rugby abbia fatto chissà quali problemi per una meta data. No, ma è vero, è vero. La moviola in campo. Ma è vero, ma lei... Riccardo, se non avessi saputo, l'avrei cercata io, avessi mai saputo che lei la pensava a questa maniera. Sto evidentemente scherzando. Perché? Ma perché sembra che questa moviola da tanti anni sia la famosa panacea per il calcio e per qualsiasi altro sport? Non è assolutamente vero. Sembra che nel rugby la moviola sia usata in maniera indiscriminata e questo abbia risolto i problemi del rugby. Non è assolutamente vero, perché la moviola è usata soltanto per la meta non meta, così come il calcio dovrebbe avere da tempo adottato una tecnologia che garantisca la certezza del gol non gol, e basta, e finisce lì l'utilizzo della moviola. Peccato che, trattandosi di uno strumento perfetto fino a un certo punto, anche i verdetti da moviola rugbistica, come quello sulla meta che lei ha ricordato nella partita di domenica, siano poi opinabili e possano sul momento addirittura essere sbagliati. Le tecnologie ad oltranza, lo stiamo vedendo anche in un altro sventurato paese, temo in questo momento, secondo me, che sono leggermente retrogrado, vanno comunque sempre prese con tante molle, è parer mio. Tocca a Rachid, che ha chiamato da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione. Anche speriamo lei. Che un giorno li vediamo alla televisione. Anche lei con i complimenti per la trasmissione. È una tragedia, cioè non è possibile. Dica. Io voglio... Lei che arriva da fuori. Sì, la partita del Milan-Bari. Sì. Io credo che il nostro allenatore ha sbagliato, perché fare riposare un po' Ibrahimovic, no? Se ne fa riposare contro il Bari, quando ne fa riposare? Abbiamo tre partite di fila che sono difficili. E poi altra cosa, con il nostro attaccante, con le tre attaccanti, io vedo che tutti vogliono fare gol subito, non c'è un gioco di squadra come l'Udinese, che ha visto che sono due attaccanti di grandi qualità e sempre fanno gol. Io ti aspetto alla radio, grazie. Grazie a lei, Rachid. Non è semplice nemmeno lasciarlo fuori, è un giocatore col caratterino di Ibrahimovic. Insomma, Ibrahimovic si sa com'è, perché non è che non credo che il calcio italiano lo possa, di club soprattutto, no, anzi solo di club, visto che è svedese, non credo che lo possa scoprire oggi. Tra i tanti pregi, enormi pregi che questo giocatore ha, ogni tanto c'è anche qualche limite e c'è anche qualche problemino problemone di gestione, no? di un diceva bene Vittorio Zucconi nel brano, nel passo che vi ho letto prima, con qualche problemino di gestione di star, come inevitabile che un giocatore così sia o magari si ritenga nei momenti di difficoltà. Giuseppe chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire in merito al signore che ha detto che oggi corrono 5 volte più di degli anni 70. Io ho iniziato a vedere il calcio, sono innamorato di Rivera. Rivera ha cominciato a giocare con Lidl e poi ha finito con Varese. Ed è sempre stato il signor Rivera. Lo vedete correre come un matto e secondo me correre come Gattuso. La differenza adesso è che fanno più allenamento di allora, semplicemente questo, ma il calcio secondo me a livello tecnico è nettamente inferiore rispetto agli anni 70. Sì. Tecnicamente ha certamente ragione lei, dal punto di vista della corsa no, io sono invece convinto che oggi corrono di più e che comunque si gioca tatticamente in una maniera diversa, per cui insomma il giocatore ha certamente meno spazio, meno tempo per pensare, viene attaccato prima, viene marcato in maniera diversa E vabbè, ma insomma, comunque queste sono le differenze. C'era una voce carina che rimanderei a domani, De Laurentiis, che parlava del futuro di Mazzarri, ma il tempo è tiranno. Causa l'infortunio di tutti i portieri per i prossimi 6 mesi. L'Arsenal, che vive questa situazione addirittura incredibile. Lehmann, che si era ritirato a giugno, ma ritirato dal calcio, torna all'Arsenal. E questa, mi spiace non ci sia più Fabio Tavelli, ma è una notizia incredibile, sarà una moria di portieri all'Arsenal. Torna il vecchio Lehmann, che aveva, come dire, appeso i guanti al chiodo. Siamo in leggero ritardo, grazie a Fabio Cantadori, grazie a Franco Piantanida e appuntamento a domani.